stimolare una sorta di dialogo fra tutti quanti noi. Quindi invito chi vuole, insomma, così rompere il ghiaccio a fare una domanda. Intervento e una risposta, se... Questo è lo schema che avete deciso di seguire? Sì, se è possibile, sì. Se non crea problemi ai relatori e al e a tutti quanti gli altri, sì. Se più semplice con uno parli. Sì. Se più semplice con uno parli senza fare una domanda specifica. Siamo un po', no? Cioè che parlano prima quelli che non hanno già detto loro. Io vorrei dire, però non c'è. aggiungere qualche cosa, altrimenti vi prendere la parola per il signore. Ma molto velocemente, cioè nel senso che non posso convenire con quello che ha detto io distillavo soltanto come, esattamente come tu dici, dentro il mondo del lavoro viene recuperato solo questo aspetto edificante, dopodiché l'esperienza ci dice dell'altro, no? Cioè, anche il fatto che spesso è stata fatta dalle donne dal femminismo distinzione già tra lavoro domestico e lavoro di cura, perché anche quella è qualcosa dove in un caso si dice, nel primo caso lavoro domestico si dice come dire, un applicarsi dentro una dimensione di fatica che effettivamente non ti dà niente, mentre quella della cura è l'ambito anche della relazione dove con tutto il terribile cercano si aiuta anche a costruire o qualche volta insomma, ad accompagnare verso la fine, nel caso delle badanti, però come dire, c'è un investimento emotivo, sentimentale, eccetera, estremamente più forte che nell'altra dimensione. Quello che volevo dire è che dentro il lavoro viene, anche qui, si utilizza questa idea un po' stereotipica, cioè della cura, che poi è una categoria così che io ritengo che possa essere utile per spiegarci questa dimensione del legame, dell'affetto, che siamo indotte a portare il lavoro. Forse potremmo usarne un altro, però visto che tra l'altro la presenza di donne nel mondo del lavoro è più forte, detto che mi era capitato di sentire, per fare un esempio, una ragazza che lavorava in una cooperativa sociale, diceva sai per le altre cose problemi legati ai contratti che in cooperative sociali ci sono le 16 socio, però capitano delle cose stravaganti. Tra le altre ci portiamo a turno a casa le tende da lavare. Non lo so come dire, questo posto di lavoro diventa qualcosa di estremamente più grande di altro a proposito della caduta di confini e di come tu non sei capace di mettere distanza tra te e quello che fai e il momento in cui te ne vai. E quindi questa idea della cura riportata all'esterno mi sembrava efficace, però semmai il tema che diventa quello di riappropriarsi di questa faccenda della cura e come dire facendo leva su quello che è l'aspetto più interessante dal punto di vista politico, cioè quindi la questione dell'interdipendenza che esiste sempre tra esseri umani e quindi il tema politico della costruzione del comune, se vogliamo, che poi sarà l'oggetto. Per cui far uscire la cura da questa dimensione edificante e utilizzare invece questo aspetto del mettersi in relazione dentro la dimensione di cambiamento. Ecco, ma io volevo chiedere a te Cristina e anche a Federica Giardini, l'ipotesi che si fa nel testo immagina che il lavoro di portare tutto al cioè di non mantenere più questa separazione tra lavoro di relazione, io preferisco chiamarlo di relazione che di cura, e lavoro per il mercato, cioè di tenere insieme, e io ritengo che questo sia più, lo dicevo prima, questa impronta femminile che porta al mercato il lavoro di relazione e ha una concezione del lavoro come congiungimento di lavoro per la produzione e riproduzione della specie. le soggettività in relazione. Ma in realtà è un lavoro politico vedere gli effetti e dirmi di questo portare tutto, perché altrimenti si sta nel già detto, cioè è già se il lavoro di relazione, no, è questo tutto, è già stato detto in quanto no, è già stato, come dire, tutto detto nelle sue potenzialità, cioè il lavoro adesso prevede anche il lavoro di relazione. E detto così, io trovo che la mia esperienza, cioè capacità relazionale, se sto solo a questo, cioè che il lavoro oggi prevede la proposta politica e che lo porti tu lì, cioè c'è allora, la soggettività insieme a altre, se io lo porto lì, voglio ad esempio che facciamo un discorso sui resti, mettiamo, no, delle decisioni, sul fatto che si produce povertà nel momento in cui si prende decisioni rispetto a una collaborazione o meno in quel luogo di lavoro, cioè allora portare veramente tutto, tutto, tutto. Questo che si gioca un distinguo all'interno tra me e lei, ecco, tra chi difende le relazioni che vanno bene e privato, sono cantato e scippato la qualità di là. Se tieni insieme, secondo me, con la presenza femminile non si potrà più nel privato tenere insieme. Cristina, vuoi aggiungere qualche cosa? Allora c'era Ida Domigliani che voleva intervenire. No, ma solo un breve intervento, perché io trovo la mattinata molto molto interessante e le relazioni molto accurate, peraltro ci sarebbe una sera su intervenire, però voglio intervenire solo su questo punto, a partire dalla questione che era posta Cristina dello sfruttamento dell'amore, no? Che questa è, io capisco perfettamente, secondo me c'è questo elemento dello, non so se l'hai chiamato più così o se è la mia sintesi, perché io lo chiamo sfruttamento dell'amore. Però allora tu proponevi, Cristina, una strategia di fedeltà, no? Per opporsi a questo culto dell'anima, allo sfruttamento dell'amore. Io invece direi, e questo sono d'accordo con Lia, ma se invece usassimo l'amore come anima, perché anche qui io parlo dell'esperienza, allora io so che c'è uno sfruttamento cinico, ho apprezzato molto la relazione di Roberto, il tentativo di Roberto di mettere a fuoco la questione del cinismo, penso che sia una cosa su cui è bello se Roberto continua a lavorare e a farci riflettere. Allora c'è lo sfruttamento cinico dell'amore, io so dell'amore per il lavoro secondo me, non dell'amore per l'altro, dell'amore femminile per ciò che fanno le donne, no? E tu Cristina lo sai meglio di me, dato che lavoriamo nello stesso settore merceologico, diciamo, quanto è più forte a occhio e croce l'amore delle donne per quello che fanno, della sciatteria sempre a occhio e croce maschile, che è quello che ha a che vedere con un prodotto e non con il potere, perché gli uomini lavorano con cura solo quando c'è di mezzo un obiettivo di potere, se no in genere vanno a un ingrosso, se ne vanno a me. Allora, io so per esperienza che si possono produrre dei veri sovvertimenti all'interno dei contesti di lavoro, esattamente quando non ci si sottrae a questa messa all'opera dell'amore, ma viceversa la si impugna fino in fondo. Naturalmente non sto escludendo il fatto che in alcune circostanze io le pratico, siano da praticare anche tattiche di separazione interrettale, non lo sto negando il fatto che ci sono certamente delle circostanze in cui questo è utile ed è secondo me doveroso rispetto alla cosa. poi siamo stati compagni di collegio, io sempre un po' femminile, lui era maschile all'Università Cattolica. È un uomo che ho abbastanza presente, ed ho ben presente quella cosa che ha notato Roberto, che è così. Però io della mia diagnosi del Tiziano Treu, che lo conosco personalmente, assolutamente, mai sentito il desiderio di conoscerlo, però lo leggerò nell'ultimo saggio, in cui ho notato che la una specie di manifesto dell'altruismo, insomma, adesso, lo considero un cattolico opportunista, proprio come diagnosi politica, non come un civico metropolitano crudele, precario e fedele. Invece io mi sono riconosciuta in questo ritratto. Certamente però è fatto tutto al neutro maschile, però io mi sono riconosciuta nelle caratteristiche e volevo suggerire a Roberto di ipotizzare, visto che poi lui ha intervistato queste donne che organizzano e che vivono un lavoro autonomo, indipendente, che pensi che questa cosa che lui ha, questo ritratto che lui ha fatto straordinario per facendo un notevole lavoro di immaginazione, come ha chiesto Tony, come ha chiesto anche via qui, che lui in fondo stia andando, senza magari accorgersi, o sì, verso il ritratto di quella che è la figura politica femminile oggi, per tante caratteristiche. Quando poi ha terminato le sue parole, da citare, ha ripreso Foucault, il coraggio della verità, e poi ha detto sì, uscire dalla polis, mettersi in una situazione altra, queste sono le cose che hanno fatto storicamente tutta una parte del mondo, delle donne che potevano diventare lì, delle cose, delle militanti politiche della sinistra, invece hanno fatto questo lavoro fino all'ultimo, trasformare il mondo insieme alla propria vita. Ecco, non ha nome, un futuro subito, trasformare la propria vita e trasformare così il mondo. Che insomma questo ritratto mi ha molto, molto colpita come ritrovamento, e questo mi poi nello scambio informale con Federica io dicevo, beh, io voglio dire a Lia Cigarini, lo vedi che cosa? Questo è quello che lei a un certo momento mi ha citato, perché è sempre una lettura di quell'autore un po' strano, se volete, e non so se viene ancora letto, Iva Villic, è una lettura recente che ho fatto. Lui ha scritto negli anni 70 un libro sulla differenza sessuale, e non riuscivo a recuperare, poi finalmente dall'archivio della Mondadori, che l'aveva pubblicato e poi si vede che non l'aveva neanche distribuito, non so niente, sono uscite le fotocopie. Era l'epoca di Vanini, c'è stata poi la Barbara Duden, personaggio interessantissimo, perché lei è una storica del corpo femminile, di tutta questa cosa qui, ed è una che ha visto, come dire, la differenza femminile che si muoveva, si incarnava in epoche differenti e ne ha visto anche così. Allora, la mia osservazione fatta da Lidia veniva dopo questa lettura e con questa riflessione, che ho trovato con orribile deformazione, ma insomma bisogna sempre imparare, soprattutto da quelli con cui non ci riconosciamo, in Susanna Tamaro, quando ha fatto quell'orribile intervento sul Corriere. Che cos'è che c'era di vero in quel testo? Che cosa c'è di vero in quel testo? Che se noi andiamo a vedere, andiamo in una società patriarcale dove le donne hanno riconosciuto il suo posto e una sua dignità e una sua limitata autorità, andiamo in questo, troviamo figure femminili di straordinaria dignità, di straordinaria limitata ma effettiva capacità di conduzione, di governo, di sabiduria, come dicono gli spagnoli, eccetera. Guardiamo alla scena pubblica oggi e vediamo un'umanità femminile devastata, che si presta a cose ignominiose, come purtroppo quel film Il corpo delle donne non fa che mostrare, non so se avete visto quel filmato, ne avete sentito parlare. Alla Casa della Cultura si sono alzati i giovani maschi, i quali hanno detto: scusate donne, ma noi non ci presteremmo a queste cose. tutto subordinazione, tutto resti del passato, è tutto che andiamo verso dove, non ho capito, ma comunque, ecco, e Federica mi dice no, no, perché c'è una, si ricomincia da capo a ricostituire una, non so se sia un'interlocuzione, una differenza femminile, che è come quasi, quasi allo stremo, quasi che non si regge, non è nulla di grandioso. Uno degli elementi di differenza femminile che ha citato Lia, li conosco, e bisogna però lottare perché non vengano ridotti a servilismo e subordinazione e sfruttamento. L'amore femminile per il proprio prodotto che ha citato Ida Dominiani, che abbiamo raccolto dalla voce di alcune operaie tessili che dicevano non vogliamo il cottimo perché dobbiamo rifinire bene il prodotto, non vogliamo dare alla clientela una giacca che poi si salta il bottone, dalla viva voce di queste donne, allora bisogna che difendiamo questa cosa. È possibile o non è possibile? Non lo so, perché è come se io mi sentissi lacerata, perché io appunto, essendo che sono arrivata della cinica urbana, che non crede in niente e che così ricostituisce una condizione di libertà per sé e per... allora mi sento lacerata su questa cosa e non vedo via d'uscita, non la vedo nelle cose che abbiamo a disposizione che ci sia una via d'uscita, perché la risposta che mi dà Lia è come se lei sottovaluta la devastazione. Insomma, poi abbiamo, adesso finisco, sorry, con una cosa che mi interessa molto. Il mondo islamico, noi siamo ormai a ridosso e a confronto del mondo islamico. Il mondo islamico, questa cosa che dico io, questa devastazione del femminile tradizionale non libero, l'hanno sotto gli occhi, saranno una parte di loro terribilmente, saranno questo, tutto quello che vogliamo. Però il mondo islamico, parlo di paesi che non solo si creda all'estremismo e all'islamismo, eccetera, parlo di mondi come il Marocco, la società marocchina, che conosco un filino, il mondo islamico queste cose le guarda, le vede, e non è che non hanno peso e non contano. Ecco, questi erano alcuni elementi che mi venivano da questa... Chi vuole prima farei... rispondere alle domande, gli interventi sia... Sì, io volevo dire che mi sembrava fosse chiaro dalla mia relazione che le donne, questo dire le donne non ha un senso, perché non sono un gruppo sociale omogeneo, eppure possiamo seguire che poi tutti ci le donne hanno competenze, sono più laureate, più colte, eccetera, e quelle ti dice la velina, eccetera. Io penso che le donne possono dare al presente, alla politica del lavoro e alla politica in generale, hanno un prezioso dono da fare, la pratica politica della relazione, del partire da sé. Cioè, come se quello che io dico è, in questo momento mi sembra di frammentazione del lavoro, di disorientamento, di crisi, c'è una pratica politica pronta, secondo me, per mettere in gioco la soggettività, ed è la pratica politica inventata, creata 30-40 anni fa, non so come, dal femminismo, è portata avanti. Non stiamo a fare un'analisi sociologica, è impossibile per quello che riguarda le donne, e neanche un'analisi di scelte contraddittorie. Cioè, si parla della società della conoscenza, si dice che la vita, le relazioni sono messe al lavoro, e io voglio che tutto sia nel mercato. A questo punto, quella che è stata la presa di coscienza delle donne, soprattutto una pratica di relazione, sa interessante è trovare delle forme di coalizione tra la pratica politica che non all'ingresso del lavoro non vi ricura appunto a situazioni che secondo me sono vergognose del lavoro, insomma 500 euro e anche meno, anche insomma tutto quello che si sa nonostante master magari e chissà che cosa. Non so se Roberto o Cristina volevano intervenire. Ma io no, io dico qualcosa su quello che diceva Ida, no? Perché si collega a ciò che Lia qua faceva presente, cioè che a una distanza nella mia interpretazione, detto che vedo perfettamente anch'io questo tema dello sfruttamento dell'amore, di quello che ho chiamato il legame d'amore, che evidentemente è vero, abbiamo, e le donne tendono ad averlo di più con le cose che producono. Dopodiché a me non mi convince l'ottica di dire usassimo quest'amore come arma, addirittura portandoci, non lo so, non mi convince assolutamente. Secondo me è necessario osservare questa tentazione che abbiamo e mettere distanza, perché sta diventando quasi una forma patologica, tanto più oggi in questa dimensione di lavoro precario o indipendente, scusa Roberto, cioè, lavoro precario, no, sto dicendo solo che, come dire, rischia di trasformarsi in un gioco, in un vincolo spaventoso, già, come dire, la questione. Ricordo adesso le vostre richieste sulle operaie che non funzionano più, cioè, mentre gli operai, i balestrini ridevano e facevano venire una rabbia della Madonna al padrone, come dice nel suo blackout, cioè se noi riuscissimo a capire che questa cosa non so come dire, non è utile farla, non è utile farla perché io sto dentro le categorie del capitalismo, di classe, di sfruttamento anche oltre a quello del femminismo, cioè non ci porta, non so, questo ti devo dire, sono le strutture di pensiero che uso insieme al femminismo, però sono le strutture di pensiero che uso, che recupero e non lo so, penso che analizzare bene quello che è il rapporto tra capitale e lavoro, anche se siamo donne, perché no, anzi tanto più che siamo donne, forse le cose le vediamo con ancora maggior lucidità, secondo me, come dire, questa logica di portarsi tutto invece che di sottrarsi non mi convince, non mi convince. Teniamo conto che per esempio il tempo libero, che è anche il tempo della politica, viene completamente devastato, diceva Lisa Morale, cioè questa tendenza alla devastazione viene completamente devastato da questo onnivoro capitalismo presente, se lo mangia tutto, cioè tu non hai più energia poi da mettere veramente dentro la costruzione della trasformazione sociale. Mi pare che le donne a questo tema, come dire, siano sempre state le più sensibili, assolutamente le più sensibili, forse poi perché vivono sulla dico, per esempio la questione dei tempi è drammatica e se noi stiamo a portare invece di dire sottrarre, a portare, quindi giocare questa scommessa di portarci di più al lavoro, io temo che finisca per essere peggio, no? Per far saltare o far implodere qualcosa. Scusa Cristina, non è che si tratta di portare di più ancora di più al capitale, si tratta di vedere se, che cosa succede in un contesto determinato, eh? Contesto determinato, quando tu porti una cosa che ha una misura eccedente rispetto alla mercificazione al potere, questa è la questione di portare l'amore e non di sottrarla, naturalmente è una scommessa, però io ho verificato che quando ci si riesce qualcosa sposta. Scusate, vorrei ricordare, non ci permettiamo che possiamo essere ancora più sensibili. Vorrei invitare tutti ad aspettare il proprio turno per un paio, lui è pronto. Un attimo, se Cristina voleva prima rispondere, allora c'è la prima Federica. Noi abbiamo già detto, ma siccome alzano certo. No, ma infatti un attimo, c'era io ho visto io scusa se non ho visto bene, comunque ho visto Federica che voleva intervenire, sì. Quindi lascio prima la parola a lei. Magari suonerà un po' banale questo. Voce. No, a tua voce. Però mi sembra che l'amore per le cose che si fa, il portare tutto al mercato, in realtà manca la sua, cioè viene depotenziato e inglobato dal modo in cui l'amore viene inteso in questo momento, e manca le sue potenzialità di emancipazione nel momento in cui questo amore viene portato singolarmente dal singolo e non viene messo in relazione. Secondo me il punto che è fondamentale mettere a tema è possibile nei modi del lavoro odierno riuscire ancora a creare relazioni e fuoriuscire dalla dimensione individuale che questo contesto crea, perché altrimenti si rischia che appunto il di più venga inglobato. Scusa, posso che tanto... Un attimo, allora forse... Sì, tanto più o meno, sì, il discorso è quello, forse bisognerebbe esplicitare quali sono le condizioni e i rischi di questa cosa, anche perché, che era un po' quello che diceva Federica, quindi un po' quello che diceva lei, ma anche a quello che diceva Roberto, se è difficile individuare il lavoro perché cambia costantemente forma, è anche difficile individuare dove io porto tutto, perché rischio che lo porto a me, perché se poi la tendenza è il contratto intimo, cioè alla fine io non so neanche dove giocarle queste cose, perché mi cambiano costantemente le condizioni, quindi proprio, diceva prima Ida Domenigliani, parliamo di un contesto preciso, e quel contesto preciso a me cambia costantemente, quindi cambiano le persone con cui sono in relazione, cambiano le condizioni, non ho neanche il tempo di giocarle queste cose, quindi forse fanno, più che stare su va bene o non va bene, bisognerebbe capire quali sono le condizioni ed eventualmente i rischi a seconda della differenza delle condizioni. Prima di lasciare spazio ai relatori, mi sembra che volevano la parola nell'ordine Augusto Illuminati e Paolo Lillo. Non hanno sentito la relazione, no? Illuminati era presente dall'inizio, poi chiunque può intervenire senza problemi. Scusi se lasciare poco. Si sente, è meglio se... Scusa, meglio se ho alzo la voce o meno di voce. Portare tutto sul mercato, portare l'amore al lavoro, però c'è un problema, e su questo non occorrono soltanto, cioè non bastano le esperienze e le narrazioni, ci vogliono anche delle analisi di sistema, delle trasformazioni del lavoro, dei punti. C'è un altro punto che secondo me è evidente, oggi non si può scegliere il lavoro. Non si può scegliere il lavoro. Cioè stanno aspettando da un po' di poter parlare. No, siccome io mi conosco abbastanza nel ritratto del cinque di comunità da Roberto, pur non essendo precario, volevo vedere il meccanismo con cui il lavoro di cura viene agganciato a uno sfruttamento capitalistico, e indipendentemente quindi poi dalla scelta, dalla discussione che c'era prima, se forzare l'andato di missione del mercato o no, e considerando il lavoro di cura ormai come una cosa che, anche se ha avuto una chiara origine sessuale, tende a essere comune un po' a tutta la condizione precaria, anche indipendentemente dal sesso, sia pure con delle una distribuzione ineguale. Ma innanzitutto vorrei rilevare, anche rifacendomi proprio al discorso prima evocato della genealogia della morale, che il lavoro di cura non è esattamente un lavoro completamente disinteressato, un lavoro che influire dell'amore verso l'esterno, ma ovviamente è legato a dei meccanismi di compensazione, di attesa e così via, e anche di sostituzione, per cui ovviamente il lavoro di cura fatto verso il proprio bambino implica, oltre a un dato biologico ovviamente, ma anche delle aspettative soggettive di ricambio, di restituzione mediante altre forme di affettività. La badante che ha lasciato il proprio bambino in Romania o in Ucraina e viene a fare lo stesso lavoro in Italia opera l'operazione in parte di sostituzione, no? Storicamente il lavoro più avvinto, quello più a perdere, quello l'assistenza al malato terminale, è stato a lungo un lavoro delle monache, un lavoro cioè in cui la compensazione era un premio ultra terreno, in cui cioè l'occuparsi degli aspetti più degradati della vita era in qualche modo meritorio, no? Quindi un atteggiamento del genere c'è sempre, secondo me, che va preso in considerazione nel lavoro precario, e questo ricordo quello che dicevo appunto le ragazze di persone occupate in un'altra aula qua di Roma 3, e c'è per esempio molto forte l'aggancio allo sfruttamento di questo lavoro di cura o del carattere di cura che assumono molte occupazioni precarie, no? Cioè l'elemento di cura e l'elemento di multitasking. Ecco, l'elemento di cura è in qualche modo il riconoscimento. Il riconoscimento è in qualche modo perseguito in più o meno inconsciamente nel lavoro di cura, e molto spesso invece il salario, perché siamo sempre sugli 800 euro, viene dato una speranza di riconoscimento che poi è, come dire, monetizzabile anche in futuro come prospettive di carriera, che però in un lavoro precario di questo tipo sono molto più tenue della vecchia carriera fondista. Ecco, a mio parere appunto c'è un coinvolgimento nel lavoro di cura e quindi nella messa al lavoro della vita. Ecco, la messa al lavoro avviene molto attraverso l'esigenza di un riconoscimento che è un elemento legittimo, ma certamente immesso nel gioco di mercato si presenta come lavoro non pagato. Cioè, come il lavoro vivo aveva una quota di lavoro non pagato in tutta la tradizione fordista per il solo fatto di continuare a tenere in piedi le macchine, ora il desiderio di realizzazione viene sfruttato come lavoro non retribuito per mantenere ovviamente una condizione di precarietà, di continua dilazione del meccanismo di riconoscimento. Hai fatto questo stage benissimo, adesso ti faremo fare un altro stage e così sarai ancora più riconosciuta e integrata. Questo meccanismo di protezione all'infinito, che ha ovviamente delle motivazioni economiche generali, che l'attuale finanziaria svilupperà molto di più, è il punto secondo me in cui avviene l'aggancio al mercato e allo sfruttamento. Lascio la parola al professor Pino. Massimo. Com'è? Dicevo che quando si intende, quando si parla, scusate, naturalmente se parlo senza aver potuto sentire le relazioni, e quindi intervengo su questa fase. non l'interesse generale contro la cantilena dei sindacati del movimento operaio ufficiale, questo prezzo fino a renderlo incommensurabile. Partire da sé, femminilizzazione del lavoro, carrozzeria del 69, ma poi in maniera rilevante, per noi più attuale, il problema della cura e della centralità della relazione. Questo invece attiene a una dimensione assai più recente, la dimensione che viene in maniera stereotipata chiamata la catastrofe del fordismo, il lavoro cognitivo, l'intellettualità di massa, avendo per cortesia attenzione a chiamare l'intellettualità di massa l'immigrato che raccoglie i pomodori a Battipaglia e non solo i fighetti, fra cui ci sono anch'io estremamente l'industria culturale. Qui è diverso. Qui c'è una dimensione di femminilizzazione del lavoro più determinata e pesante. Allora la domanda è, rispetto agli ultimi interventi, quindi chiedo per la seconda volta scusa di non conoscere le premesse, diciamo il contrasto, dove si dà, con un gergo che non è mio, che non amo, soggettivazione, semplicemente si mette un po' di piede sul sedere di quelli che hanno sempre comandato, non smettono di comandare, se questo soggettivo è un'eccezione di soggettivazione. Il contrasto è tra ciò che l'attuale organizzazione del lavoro esclude e che noi potremmo includere. Per esempio, si potrebbe dire di questo schema: l'attuale organizzazione del lavoro esclude la pratica della relazione. Si potrebbe dire esclude, nel senso che considera un'eccezione scandalosa e rilevante, il lavoro di cura. L'aspetto. Questa è una possibilità. Io credo che le cose non stiano così. Credo che ogni lavoro contemporaneo, qui davvero pesa assai più che nel 69, idea forte, né metaforica, però di altro stile di femminilizzazione del lavoro, che tutto il lavoro contemporaneo contenga una quota più o meno visibile, ma ineliminabile, attenzione, tecnicamente ineliminabile, di cura e di relazione. La relazione, nel modo di produrre precedente, ognuno ha il suo genere, non so quello che volete dire, come lo volete chiamare voi, diciamo quello precedente, quello delle generazioni precedenti, la relazione naturalmente non è che non c'era, ma la stabiliva alle spalle di donne e uomini che lavoravano insieme, e stabiliva l'ingegnere. L'ingegnere stabiliva la interconnessione. Ora, se c'è un punto visibile di come sono cambiate le cose, è che si chiede a ogni singolo lavoratore e a ogni singola lavoratrice di elaborare relazioni. La gran parte della, e questo naturalmente, guardate di nuovo, per non avere equivoci strani, io parlo della via di me, anzitutto, poi parlo del call center, dove la cosa è visibile, ma è interessante il call center per capire la via di me. Allora si chiede di elaborare quella che nel gergo della tradizione americana, io conosco le tradizioni, si chiamava cooperazione, la forza produttiva della cooperazione, cioè della relazione, con la differenza che si chiede a ciascuno, in gran parte dei compiti lavorativi consistono nel modulare, variare, adattare, potenziare la relazione. E in più, per quello che riguarda il lavoro di cura, altro aspetto decisivo, che come lo possiamo tradurre? Io non produco male, sbaglio, abbiate la pazienza di accettare anche la mia immagine. Lavoro di cura significa che non puoi fare niente di produttivamente rilevante in tutti i settori della produzione sociale se non tiri dentro la tua produzione sociale molta della tua capacità di stare al mondo così facile. E il che significa che quello che si chiama, con un termine, diciamo così, a essere privi di polemica, detestabile, professionalità, o comunque saper fare mansione, non la prendi sul luogo di lavoro in relazione al luogo di lavoro, ma nel vasto mondo, dove conta sempre quella cosa che i greci chiamavano diligenza pratica, che stai lì, fai la cosa giusta, cioè un senso del contesto, un senso delle circostanze, la duttilità di trovare la regola che ogni volta è quella giusta. I greci lo dicevano con la parola, così sempre un'altra volta, per chiudere gli occhi per il sonno, fronesis, saggista, ma è meglio che sta. Allora, questo, quella è pura. Voglio dire, quell'eccedenza di cui parlava Ida è dell'eccedenza dunque dell'aspetto affettivo per prendersi cura e del tra. Tra è la paroletta di cui mediare, ma non importa, è la paroletta essenziale della relazione, la centralità del tra, quello che avviene tra noi, non quello che avviene nella sua testa, nella mia, io dicevo, nemmeno la somma di quello che avviene nel singolo testo. Il tra come dimensione prioritaria. Allora il problema qual è? Che io sono bravo al lavoro esattamente nella misura in cui metto nel lavoro quello che esula dal lavoro, quello che eccede dal lavoro. Questa è la regola generale. Quindi io, questo è il motivo per cui, senza sapere tutti gli argomenti, semmai quelli principali che sono stati portati stamattina, che probabilmente va oltre questa mia osservazione, dico che non si tratta di una esclusione della relazione e della cura dall'ambito produttivo. Quindi, e naturalmente sono d'accordo con gli Ciccarini quando dice se ci sono dei ritardi, se ci sono interi settori in cui ancora questa, poco questa cosa accade, ma che accada fino in fondo, che accada nei settori, non so come chiamarli, dato che non faccio grandi differenze, privati, pubblici, eccetera. Ma il punto decisivo non è l'inclusione di ciò che è escluso, perché ciò che sarebbe escluso è tanto poco escluso da essere l'unica vera risorsa economica e produttiva della nostra epoca, relazione e cura, cura nel senso di esperienza del mondo, per fare molto come necessario per fare mansioni utili e variabili. Se non hai fronesis, se non fai mondo, non sai fare nemmeno quella cosa umiliante specifica che rispondere a una telefonata in un call center. Allora, così come, qual è il cuore della relazione se non la nostra linguisticità? E dopodiché si può dire qual è il problema del capitalismo o scusate dell'organizzazione del lavoro contemporanea, è che esclude la relazione come linguaggio. Beh, non credo che il problema sia questo di dire che dilaghi, anche perché fanno delle vere riunioni di autocoscienza alla fine dell'inizio per decidere cosa fare di volta in volta, quindi diciamo questa linguisticità è addirittura il presupposto della produzione. E allora il problema non è questo, il problema è il tra, ci siamo capiti, perlomeno nel mio gergo, nel mio rigoletto privato è la dimensione della relazione, il fare mondo e il saper stare al mondo che diventa del tutto professionale. La nostra linguisticità, il problema è questo, che si affermino anche, perché invece al momento che sono esclusi, o riconoscere che sono la sostanza di tutto quello che oggi chiamiamo in un modo o nell'altro, nelle sue svariatissime forme, produzione, e costituiscono il terreno di battaglia. Quale tra, quale forma prende il tra, quale forma prende la relazione, quale forma prende la cura? Come ho detto, ho come impressione che non ci sia tanto una cesura tra dentro e fuori, ma assai più implicante è il perturbante di Freud, no? Che quello che è massimamente familiare, la relazione, la cura, il partire da sé, può prendere, perché no, prende un aspetto, come volete chiamarlo, inquietante, strano e sinistro. E probabilmente nell'esperienza della relazione e del far mondo, che oggi è messo in produzione, generale. Noi vediamo come sotto una lastra di ghiaccio la possibilità di un'altra politica e di altre istituzioni, radicalmente non universali e radicalmente non statali. E vediamo questa possibilità di altre istituzioni completamente invece connessa alla produzione. Non so se è chiaro il punto su che forse è quello che sembra ancora questa eccedenza da regola. Vuoi produrre? Beh, devi sapere un milione di cose che ti derivano dalla relazione con gli altri, dalla relazione col mondo. Se vuoi produrre questa cosa in tempo reale con la variabilità di chi? Era il punto che volevo sottolineare. Prima di lasciare la parola a altri interventi, forse è il caso di vedere se i relatori vogliono intervenire su quanto è stato detto finora. Se volete intervenire prima oppure. Comunque mi sembrava interessante quello che ha detto Roberto Ciccarelli rispetto al fatto che ci sono appunto i precari, gli indipendenti, diciamo, metropolitani che si fanno avanti e cercano in qualche modo appunto di mettersi a disposizione in questo, diciamo, in questa logica, in questa dinamica, comitando anche con, quindi con le persone che gli stanno vicino. perché da questo punto, ecco, secondo me la cosa importante è capire che questo tipo di meccanismo poi ha aumentato e sta aumentando vertiginosamente la conflittualità individuale, e questo ovviamente a scapito di quello che può essere una conflittualità di tipo politico o la capacità di proiettare un'identità collettiva. E quindi, ecco, mi sembrava molto interessante questo aspetto, che poi nella pratica comune del lavoro si vede: le persone appunto sono più precarie, hanno meno diritti e più hanno questa poi invece tendenza un po' a volte autolesiva a invece appunto a sgomitare, a farsi avanti per farsi poi sfruttare, insomma, a tutti gli effetti. E poi rispetto al fatto che appunto il capitale oggi sicuramente attraverso il processo di femminilizzazione tiene in condizione di minorità le lavoratrici e i lavoratori, è un dato di fatto utile da tenere presente. Come? Hai detto che attraverso il processo di femminilizzazione il capitale tiene i lavoratori in condizione. In una condizione? Perché la femminilizzazione? In una condizione appunto di minorità, di precarietà. Ma perché lo addebiti al fatto che ci sono donne, più donne nel mercato? Perché mi domina, perché misoginia, e questo nel quadro sembra normale. È che sempre misoginia, dire. La questione è che sembrava che fosse una semplice. Lasciamo terminare l'intervento. Ecco, insomma, il linguaggio è importante. Sicuramente da parte mia, insomma, c'è. Come ho detto io, lo dicono tanti. No, scusate per la semplificazione, mi sembrava che fosse venuto fuori anche oggi dalle, no, insomma, appunto, credo dalle cose che si è questo, Cioè tu hai fatto bene a ripeti quello che è a monte di questo incontro, che forse non è stato detto. Non usiamo questa parola per dire che il mercato è diventato più debole, perché lì proprio lascerei terminare l'intervento prima. Le perdenze, eccetera, e hanno immagine assolutamente deteriore della differenza femminile, totalmente deteriore. Comunque rispettiamo l'intervento, sì, e il pensiero, ognuno ha presa di parola. Sì, no, è grandissimo, è eccezionale. È una mia traduzione, non coincide proprio, ma voglio dire, sì, no, no, facciamo il problema, no. Sai, lì non è capitato nulla. No. E poi volevo semplicemente, insomma, concludere con un'idea sul fatto che il potere maschile, appunto, se il potere maschile si è servito e ha sussunto, diciamo, il femminile e il potere della maternità, io appunto mi chiedo se è possibile appunto mettere in discussione, dare una lettura diversa anche nel presente. Dal mio punto di vista è molto importante oggi, e sarebbe molto importante mettere invece a disposizione, aprire il potere della maternità al maschile, e per quanto riguarda soprattutto il lavoro di cura, promuovere anche una cultura del trasferimento al maschile del lavoro di cura, perché io non penso assolutamente che solo le donne si possano prendere, ad esempio, possano avere cura sia in ambito, non solo in ambito pubblico e in ambito comunque lavorativo, ma anche in ambito personale e familiare. Questo è uno spostamento che secondo me, dal mio punto di vista, per carità, però assolutamente necessario oggi. Io credo che anche la maternità sia un potere politico come il potere pubblico, e credo che ci debbano essere da questo punto di vista delle rotture e dei trasferimenti. C'era prima? Sì. Prego. No, io volevo dire una cosa, però è andata via. Sul fatto di non avere scelta del lavoro, che senza voler essere utopisti, però in realtà era uno dei punti da cui eravamo partiti quando abbiamo iniziato a lavorare su Diversamente Occupate, e ci siamo chiesti se questa cosa era vera o no, anche perché è il punto su cui fanno leva per ricattarci, cioè questo c'è e quindi noi non abbiamo possibilità di negoziazione. In realtà, a prescindere dal fatto che è sicuramente vero in determinate condizioni, noi abbiamo scoperto anche nell'esperienza di alcune di noi che nel momento in cui proviamo a vedere cosa succede, se non stiamo a questa verità, che delle cose cambiano, degli effetti ci sono. Cioè, se diciamo, ok, forse non è vero che non ho alternativa al call center, forse non è vero che sono costretta ad accettare uno stage dopo l'altro, effettivamente delle cose ci sono delle reazioni diverse anche dalla parte, dall'altra parte della negoziazione. E, invece una cosa che volevo dire su quello che diceva Roberto sul credito, così non ti addormenti, che ti vedo un po' distratto, e sposto un po' la cosa. Non è tanto una domanda quanto un'osservazione che me l'ha venuta in mente. Tu hai detto che il credito era il riconoscimento dell'affidabilità dell'uomo maschio e che questa cosa poi gli dava la possibilità di accettare il lavoro subordinato perché partiva dalla base della sua libertà e che comunque era una presunzione di avere un credito illimitato, no? Questa cosa qui. Allora, mi è venuto in mente invece il meccanismo del microcredito, che in un certo senso è esattamente il contrario, perché il microcredito è un sistema di riconoscimento dell'affidabilità delle donne, perché di solito nel modo in cui è nato il microcredito era fatto alle donne. Ed era esattamente su un principio diverso, nel senso che il modo in cui si faceva proprio praticamente, e si fa tuttora, era andare dalle donne e dire ok, di cosa hai bisogno, no? Allora, che ne so, la donna, adesso parlo dell'esempio che racconta Yunus nel libro, no? Cioè io se avessi una mucca potrei fare questo, questo e quell'altro, allora io ti do un credito proporzionato al tuo desiderio e al tuo bisogno. E questo è esattamente il contrario, no? Perché intanto è connaturato a me, non è qualcosa che, no, la presunzione del credito è illimitato, eccetera, eccetera. Mi dà una vera autonomia e non mi mette in condizione di potermi subordinare a un altro perché mi dà una libertà, riconosce l'affidabilità delle donne ed è effettivamente più efficace, cioè non crea questi meccanismi, no, di finzione per cui poi andiamo in crisi. Questa è un'osservazione. Quella. Allora, sono uno e un quarto, a questo punto darei prima la parola ai relatori se vogliono intervenire su quanto è stato detto adesso e poi vedere se c'è ancora tempo dare spazio a qualche altro intervento. No, sono molto d'accordo sul microcredito perché ribalta un po' il meccanismo. Ovviamente bisogna anche collocare questa esperienza che il nostro racconta e opera in situazioni sociali e economiche piuttosto diverse. No, l'esperienza di microcredito c'è cioè, sempre il governo di centro-sinistra Prodi, qualcosa del genere, cercando di, poi una cosa credo ripresa da Vendola, un po', insomma, credo sia giocato la campagna elettorale, credo che passi per uno che è di giovani più di esso. No, esce tutto un piano di stanziamento per le piccole imprese, ditte individuali nel meridione. Questo stiamo parlando in metà degli anni 90, ed era un esempio di microcredito, ovviamente con le modalità che solo in Italia meridionale si possono adottare e con in più il fatto che a gestire era la burocrazia locale. Ovviamente non si è, credo non si sia avuta notizia di quella iniziativa, non credo abbia prodotto nulla se non abbia finanziato le agenzie di intermediazione. Le agenzie di intermediazione, facendo inchieste sul lavoro indipendente e autonomo, sono un soggetto molto interessante che, con le quali chiunque faccia uno stage, ad esempio, a partire dal livello più rozzo e più della formazione in un lavoro della conoscenza, del lavoro intellettuale ha a che fare. Ad esempio, per i formatori e le agenzie di intermediazione nel Lazio sono 6 o 7, sono gigantesche, la metà della quale posseduta dai sindacati confederali, sono gigantesche, poi altre private, detenute con capitali privati, eccetera, cioè partecipazione diretta e indiretta. Sono gigantesche, enormi macchine mangia fondi europei che si spartiscono con il potere politico le risorse. Per cui il valore che tu con le tue competenze, la tua intelligenza, il tuo corpo e la tua mente puoi produrre, viene sempre, lo devi sempre dimezzare, se non anche al 70-80%, contrattando con queste agenzie di intermediazione. Un altro esempio è il giornalismo. Ovviamente, come tanti altri settori, il giornalismo in particolar modo è un mondo del lavoro particolarmente corrotto, soprattutto per l'accesso, ovviamente, risparmiandoci dei livelli superiori. Come si accede in linea generale? condizione di fare, di esplicare 18 mesi di praticantato presso una testata. Ovviamente nelle condizioni di lavoro risapute questo è pressoché impossibile, ovviamente la devi pagare la scuola di giornalismo che appunto opera come sistema di intermediazione. Credo che un altro elemento per parlare del nuovo rapporto non più simmetrico come pensava Nietzsche a proposito della società borghese cristiana con venature tendenzialmente socialistiche che insomma, mi faceva qualche problema, che era la Russia, la Germania, eccetera. Ecco, un ulteriore elemento nella disimmetria del rapporto che c'è tra credito e debito oggi, e con questa analisi dovrebbe rientrare un terzo soggetto, cioè il lavoratore non è più solo rispetto alla pubblica amministrazione, allo Stato, all'impresa, c'è un terzo soggetto e probabilmente ce ne sono molti altri che si frammentano nella catena del valore della produzione, per cui è molto che significa questo? Che il mondo del lavoro col più è sempre più oggi diventa un mondo politico di relazioni, questa è una tesi che va anche incontro Paolo, però sarebbe il caso di esplicitarlo, ovviamente lo viviamo dal punto di vista negativo perché è semplicemente una catena succhia valore questo, cioè, a tal punto che appunto chi lavora nel giornalismo guadagna io per primo una media di 400 euro al mese, considerando tutto. No, il meccanismo però è interessante questa osservazione sugli stage, io inviterei un po' tutti a finalmente sollevarci dall'immaginario creato da Scano Celestini, che è stato anche il mio compagno di studi al Dams della Sapienza, ma anche da Paolo Mirzi, cioè il call center risale a un'organizzazione dell'economia dell'immateriale che è tendenzialmente, sì, vigerà sempre, però è tendenzialmente rudimentale rispetto a quella che è oggi. Cioè grandi concentrazioni che replicano nella fabbrica centralizzata che mettono in comune, lavorano con i telefoni e non con la catena di montaggio. Non è più semplicemente così, cioè è vero, però l'immaginario, il nostro immaginario non può essere conficcato con la realtà, perché è troppo simile al pensiero e fuorviante per questo, pensiero che siamo ancora in un'epoca manifatturiera della produzione. Cioè, e su questo, soprattutto nel dibattito pubblico in Italia, ha avuto un impatto devastante, che significa carenza di conoscenza della realtà quotidiana in cui vivono al circa 4 milioni di persone, come dicevo, secondo il CNEL, cioè, ha un effetto veramente devastante sull'immaginario, cioè il silenzio. Non esiste nient'altro se non il call center, ma stiamo scherzando, cioè, è indicibile questa cosa. Però che manufatto produce il call center, scusa, come, no, come, come vuoi considerare, produce l'opacità umana che è difficile. Sì, sì, per carità, insomma diciamo che esistono tanti altri luoghi e modalità per il problema, no? Diciamo appunto la produzione diffusa. No, la questione dello stage. Che cosa porta, soprattutto nell'ambito del giornalismo, della ricerca universitaria, a passare e a vivere in una condizione che tendenzialmente in media può durare, ad oggi dura una quindicina d'anni, 12-13 anni? Che cosa ti obbliga a fare una cosa del genere? Se in compenso c'è 400 euro al mese per circa 4.000 euro all'anno in nero, cioè, ovviamente stiamo parlando di numeri di 1.000-2.000 euro all'anno quando hai finito tutto il ciclo della formazione postdottorato e se che cosa fa? Cioè o sei fuori di testa oppure c'è una questione che riguarda la cura e tutto quanto, che però è un aspetto complesso questo della cura, perché evidentemente quando faccio il giornalista io tengo, è un imperativo categorico fare un prodotto, non dico decente ma migliore. Che cosa in queste condizioni mi impone questo imperativo? Cioè, è una questione molto complessa, perché appunto se ovunque è così, non è che posso scegliere, me ne vado, all'estero, cioè fantastica questa cosa, è un meccanismo geniale che si sono inventati. Me ne vado all'estero dove io, grande intellettuale, verrò molto apprezzato. Sembra una mia tirata, però vi assicuro mi ha obbligato a stare 13 anni ad aspettare qualcosa che sia una continuità di reddito dall'università. Cioè, questa è appunto la categoria di contratto intimo, è qualcosa che mi sembra possa dare un po' di forma a questo complesso, questa complessa posizione di autonomia e di libertà, di subordinazione, di aristocrazia e servilismo, che connota ovviamente non una posizione in particolare, ma un dato antropologico. La trasformazione dovrebbe essere valutata da questo. Poi l'ultima cosa, gli stage nell'industria, Cristina ne sa molto di più perché conosce benissimo la realtà milanese, però da quello che so nell'industria pubblicitaria, soprattutto del cinema a Roma, gli stage vengono utilizzati per abbassare nelle gare d'asta tra agenzie di intermediazione e l'offerta, per cui ci sono partite IVA o lavoratori indipendenti che si associano per fare una società e ovviamente hanno dei costi. I grandi agglomerati che lavorano nella comunicazione, in questo caso, usano la forza lavoro gratuita, ovviamente non solo neolaureati, ma ci sono infiniti casi di trentenni e ultra trentenni che sono in regime di stage o di lavoro in nero, perché lo stage è il lavoro nero, che vengono utilizzati per abbassare l'offerta. Per cui, per tornare alla questione precarietà, ci chiamiamo precari o indipendenti? Cioè, definire questo completo, ad esempio, partiamo dallo stage così come viene utilizzato, per non parlare di come viene utilizzato nei giornali, ma questo è un altro discorso di cui preferisco non parlare, per ovvi motivi, sta dentro una realtà politica molto complessa, per cui ostinarsi ancora a parlare di precariato che il call center è l'immaginario del precario, almeno così è passato, non è vero ovviamente, ma non è vero assolutamente, però nei film di Pirzi ad esempio così viene definito, cioè, l'immaginario conta un peso, dovremmo considerare tutti questi fattori, per cui io difendo la mia tesi, chiamiamoci indipendenti. Autonomo, del lavoro autonomo di seconda generazione, non so, quello di chi in effetti bisognerebbe togliere la parola precario, perché se non nasconde realtà differenti. No, io volevo dire due cose. La prima, Birno diceva niente escluso. Ecco, noi quando diciamo votare tutto al mercato, siamo partiti da una forte esclusione, cioè la relazione materna, cioè la maternità è in contraddizione con la presenza delle donne nel lavoro. Allora abbiamo verificato che molto è cambiato, cioè adesso le donne hanno due desideri, di stare con i figli, non fare figli solo perché se no dicono gli asili nido eccetera, di stare con i figli, avere una relazione con i figli nella giornata e lavorare. E quindi si tratta di, come dire, un doppio sì, sì al lavoro fuori casa e sì alla maternità. E da lì è partito. Dopo aver sentito un centinaio di donne che dicevano non è risolutivo il part-time, non è risolutivo i famosi asili che peraltro in Italia mancano, io voglio che l'organizzazione del lavoro sia a misura del mio desiderio di passare ore con i figli e contemporaneamente il desiderio di lavorare. Quindi invece c'è una tendenza tuttora nell'epoca in cui le relazioni sono state incluse a rendere la maternità un fatto privato, te la risolvi te. Ecco, questo vuol dire naturalmente la questione del tempo, dei tempi nel lavoro, cosa sempre lasciata da parte non solo dai sindacati ma tutti i teorici del lavoro, ecco, cioè che hanno insistito ovviamente passare. sullo stagismo, sui famosi 500 euro, questi come dire, vergognosi salari, stipendi di entrata. Ecco, allora io vorrei, non so cosa ne pensiate, ma che quando ho detto basta, i 30 anni che si parla di modificazioni del lavoro, cominciamo a vedere che pratiche politiche, che forme di coalizione. Ecco, secondo me le università potrebbero essere quelle che pongono collettivamente, per la gran massa di studenti che ci sono, alcune delle cose dette oggi. Carissimo, quindi ho una brevissima. Roberto ritornava con la cultura dicendo io nel durante il mio lavoro ho messo la massima cura, ed è vero, poi si fa così, scrivo l'articolo e ci metto la massima cura. Ecco, io però a proposito di misura ho davanti una ricerca fatta dall'Ordine dei giornalisti sull'ordine non apriamo il dibattito, dove misura si prova a dare, l'ho stata fatta ora, e ci sono una serie di esempi interessanti, che ne cito tre e poi chiudo qua. In Lazio il sito www.newsnotizie.it, 35 news settimanali compensate con 1,50 euro per ogni 1000 click raggiunti più 12 news a settimana senza retribuzione. Passiamo in Lombardia, Il Giorno Quotidiano, una foto 2,50 euro, una notizia breve 2 euro, un pezzo medio 7 euro, un pezzo grande 10 euro. Rari, dice, grande. Superati i 50 pezzi, gli altri vengono retribuiti 2 euro. Il Sole 24 Ore in Lombardia. Qui si è trovata un'altra forma di misura ed è lo 0,50 euro a riga, però compenso dimezzato all'inizio dell'anno. Allora, questa è un po' la dimensione dove noi ci prendiamo cura e poi, come posso dire, abbiamo anche questo problema di un sistema di produzione che non è neutro e che ti mette di fronte a questi elementi, come posso dire, concreti. Io è questo che dico quando poi dico... Non so se riesco a seguire il ragionamento che fai tu, che pure comprendo, perché questa poi è la dimensione dove rimaniamo inchiodati. Ma se tu ci stai inchiodando voi. Ma lei, non è che sono io sto dicendo che secondo me bisogna immaginare delle forme. Come posso dire, anche di sottrazione, che ci portano fuori da questo guado, perché finché noi stiamo dentro questa logica di ricatto, veramente per amore o per forza, portandocene invece tutta questa cura, io non penso che riusciremo a salvarla. Ma io dico, ho l'impressione che stia succedendo l'inverso. Io ho l'impressione, non è che ho delle certezze, io non ce le ho delle certezze, ho l'impressione che stiamo come una specie di piano implantato, e che se no mettiamo una zeppa da qualche parte, da cui per esempio il tema del reddito, che sempre là stiamo e che ha da questo punto di vista un fondamento anche per ciò che riguarda la scelta del lavoro, noi dentro questa cosa qua non credo che portandoci riusciamo come dire, a stare una tendenza al dumping sociale dei prezzi sempre più grande. Questo io noi stavamo oggi parlando delle forme di lotta, di ribellione, di alzare la testa. Io proponevo una pratica politica, possiamo discuterla, ma non è che rimaniamo. Penso che anche quando nell'Ottocento venivano pagati forse anche meno, qualche forma di lotta, di relazione, parliamo delle forme di lotta, ecco, ma lo sappiamo, di trasversalità, discutiamo di questa separazione tra creazione e produzione, non lo so, facciamo queste benedette grandi inchieste sul lavoro cognitivo, sui lavoratori della conoscenza, che adesso qualcosa c'è, però a tutti i bocconi ci mancano, secondo me, appunto, delle grandi fotografie, quadri che ci aiutino a comprendere come dove, non lo so. dispiace dover mettere il punto qua, però siamo oltre l'una e mezza, quindi considerato che alle 15 c'è la seconda sessione, vediamo un po' i lavori e ringrazio nuovamente Roberto Ciccarelli, Dia Cicarini e Cristina Morini per essere benvenute e ci rivediamo alle 15.